con l'autore, attore Marco Bianchini del Teatro della Caduta per parlare dello spettacolo 1 su 6.000 ad Appi Teatro a Roma, giovedì 28 febbraio 2019. Marco, ben trovato. Eccoci, ciao, buongiorno. Lo descriviamo brevemente lo spettacolo? Allora, brevemente, considerando che uno spettacolo dura un'ora e qualcosa, quindi insomma, cioè, le cose che devo dire le dico tutte in quell'ora lì, quindi condensarli in pochissimo, non so se ce la farò, ma adesso ci provo. Allora, è uno spettacolo che vabbè, è scritto, diretto e interpretato da me, è prodotto dal Teatro della Caduta di Torino. Uno su 6.000, partiamo dal titolo, dici chi è quest'uno, chi è questi 6.000. Allora, tecnicamente l'uno sono io, i 6.000 sono i 6.000 abitanti del mio paesino nella provincia di Vicenza. Diciamo che l'antefatto è questo: a un certo punto c'è un abitante di questo paesino che capisce che ci sono delle cose in lui che lo rendono parecchio diverso da tutti gli altri. E da lì si parte a cercare di capire come si fa ad adattarsi e a cambiare per essere proprio come tutti, oppure se va bene così. Queste strategie dell'adattamento sono fondamentalmente le strategie che fanno parecchio ridere, per cui il registro dello spettacolo si gioca su diversi registri, si va dal comico, proprio palesemente, alla paradossale, e poi ci sono dei registri molto molto molto più intensi, insomma più profondi, insomma, si ride, si piange, succede tutte cose. L'origine di questo lavoro? Temporalmente io ho iniziato a pensarci nel 2016, poi ha debuttato nel 2017, adesso è un anno e mezzo che lo porto in giro. E niente, era uno spettacolo che a un certo punto è uscito da sé, nel senso io, vabbè, ogni tot, come fanno tipicamente gli autori e autori, mi metto a lavorare su qualcosa. Questa questione della diversità, dell'essere omosessuale e di tutta la mia vicenda personale nel paesino, a un certo punto insomma dovevo uscire. Considerando anche che 2 anni fa, e adesso la situazione non è che sia molto migliorata, c'era un ambiente un po' particolarmente aggressivo rispetto a queste tematiche qua. Non so se si stava discutendo, legge, Cirinna, cose così, e c'era veramente un ambiente. Mi sentivo un pelino preso in causa e ho cominciato a pensare, vabbè, a questo punto è il caso di andarci a mettere la faccia su queste questioni qua. Come hai pensato di svilupparlo? Com'è la messa in scena? Come hai pensato la messa in scena? Allora, partendo dal fatto che tecnicamente è un monologo, però io, cioè, adesso uno un monologo si immagina abbastanza l'attore e la sedia e boh, fermo lì che parla e parte. Mi annoio io a fare sta roba che sono fermo sulla sedia e parlo, per cui succedono miliardi di cose, nel senso io cerco di variare il più possibile la situazione, i registri, i personaggi che perché parlano, sono sempre io sostanzialmente, però a volte il discorso è affidato ad altri personaggi, sempre interpretati da me, ovviamente, e poi vabbè, canto, ballo e faccio cose, giusto perché non sia una roba che c'è sempre l'attore lì e che parla, parla, parla e parla. Succede un monte, nel senso che io da solo cerco di fare per 2, 3, 5, 15 la compagnia intera. Il tema della, appunto, della diversità, come l'hai affrontato? L'ho affrontato a partire appunto dalla mia personale, appunto di ragazzino, prima bambino, ragazzino, poi adolescente, poi adulto, gay, che è cresciuto in questo ambiente dove praticamente l'omosessualità diciamo che esisteva come idea, come concetto, ma come proprio all'atto proprio pratico, insomma, di persone omosessuali nel mio paese, allora, ma neanche adesso in realtà, non è che ne conosco, non ce n'è, quindi c'è proprio una roba che esiste teoricamente, ma poi in pratica fa un po' fatica a uscire. Quindi è partita da questa cosa qua. Poi il discorso si allarga in realtà a tutti i tipi di diversità, nel senso che alla fine dello spettacolo è capitato 1.000 volte che veniva chiunque a parlarmi e diceva: no, perché anch'io non c'entra niente tutto quello che hai detto, però mi è venuto in mente quando a scuola io mi vestivo in un modo che non si vestivano tutti in quel modo lì e mi prendevano in giro e boh, che non c'entra niente sostanzialmente con quello che racconto io, però ognuno più o meno nella vita si trova ad essere uno su una moltitudine e quindi io mi rivolgo sia all'uno sulla moltitudine che alla moltitudine che magari insomma mi due domande se le può fare vedendo questo spettacolo qua. E questo spettacolo che percorso sta facendo? Sta facendo un percorso tortuoso e faticoso, come è giusto che siano gli spettacoli. Insomma, è iniziato, è stato prodotto dal Teatro della Caduta a Torino, quindi ci sono stati un po' di anteprime lì, un po' a Milano, un po' da amici, anche in un po', giusto per testare diversi territori, perché insomma non è che uno fa una cosa dalle due parti, poi insomma devi un po' capire come viene recepito. E adesso ha debuttato ufficialmente a Torino, la stagione del Teatro della Caduta del 2017, poi è iniziato a girare un po', è stato in Brianza al Festival Giardino degli Esperidi, adesso è stato la settimana scorsa era a Milano Coda, Linguaggi Creativi, insomma diciamo che si muove tra spazi ufficiali, spazi off, insomma un po' dappertutto, prende e va. A volte in situazioni più di dove mi porto, scenografie, cose varie, a volte, come sarà il caso di domani, in versione un po' più unplugged, diciamo, dove ci sono io e poco altro. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Per saperne di più, allora c'è la pagina Facebook per proprio nello specifico di domani dell'Accademia Popolare Celli, che è nel cartellone che si chiama Anfiteatro. Poi c'è il sito del Teatro della Caduta, che è www.lacaduta.org, e poi c'è la mia pagina Facebook, che è Marco Bianchini, Teatro della Caduta, tutto attaccato. Bene, e allora ricordiamo l'appuntamento con Uno su 6.000, spettacolo del Teatro della Caduta a Roma, ad Appi Teatro, giovedì 28 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Marco Bianchini. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie mille. Ciao.